sento il freddo ma porto dentro il fuoco che ospingo, il calore della mia regione, dal sud al nord. Mo beta, ti ubriaca di parole, medita su verità in vino veritas. Sino a Bolzano si ti sa che il suono è reale sulla strumentale. Conta chi san, tocca sana per la mente come un freestyle sconvolgente, un flow infuso e piena galla. Perché emergente, deterge la gente che se lo sente, purifica chi mente, se crede in ste parole, se no valgono niente, si immaginano spente, e quando sei al buio non c'è luce che risplende, non prende bene, come per chi non prende da bere, in questo teatro di falsità siamo le maschere più vere, contro le chiacchiere deleterie, controbattiamo con fatti, tramite incastri faccia al dovere, il cuore batte per le rime vere, dotate di carattere, potenza, perciò hanno potere. Per ogni risultato, ogni volta che hai pianto, hai temuto realmente che finisse tutto quanto. Quando uno sbattimento corrisponde a un fallimento, acqua sul fuoco ma non mi avete ancora spento. Ogni volta che hai provato evitando ogni rimpianto, rispetto della gente ripaga di tutto quanto. Le mani vanno in alto per la gente che suda, mentre chi giudica si inginocchia e suca. C'è chi chiacchiera e che giudica anche ciò che non conosce, c'è chi blatera e non medita, c'ha sempre le risposte. C'è chi troppo vuole e nulla stringe, finge di creare movimento ed è fermo come una sfinge. Lo spinge mentre qualcosa si sta smuovendo, la terra trema perché non coinvolge. Se coinvolgimento non c'è coinvolgimento, disastro partito dall'inizio come un nastro in riavvolgimento. Volge al termine la tua avventura, ti percuoto e poi fai voto di silenzio come suore di clausura. Misura la lunghezza del tuo naso, parli sempre a caso, chiacchieri ma più caro non è il caso. Cose caso, sono anagrammi di caos qui, quindi non è un caso che beta se l'anagramma di Beat Street, in senso stretto mai lato, distante dal significante, mai dal significato. Per ogni risultato, ogni volta che hai pianto, hai temuto realmente che finisse tutto quanto. Quando uno sbattimento corrisponde a un fallimento, acqua sul fuoco ma non mi avete ancora spento. Ogni volta che hai provato evitando ogni rimpianto, rispetto della gente ripaga di tutto quanto. Le mani vanno in alto per la gente che suda, mentre chi giudica si inginocchia e suca. E poi se ci rifletti per assurdo, chi giudica di solito è chi si sbatte meno in fondo. Qui basta un secondo che già si fanno seri, sparando più sentenze che a forum Santi Ligheri. Trip egocentrismo causato da illusionismo, ma come Red Butler francamente me ne infischio, perché differenzio i fatti dal nozionismo. Chi suda non condanna perché sa cosa sia un rischio. Dai, per favore evitiamo ogni ipocrisia, chi si sbatte ottiene semplice meritocrazia. Ok, a volte ottiene anche chi non si è impegnato, ma se vuoi essere lui sei tu quello sbagliato. Io ne ho già abbastanza, non sei costruttivo come un'impresa edile con gli operai in vacanza. E se ciò che dici rimane un fatto astratto, commenti come il cucino ma pisciandomi nel piatto.